in primo piano. Buongiorno alle ascoltatrici, buongiorno agli ascoltatori. Angelo Miotto in studio per la rassegna stampa. Vediamo subito allora che cosa raccontano i giornali con le loro aperture, la loro composizione delle prime pagine. E ovviamente, come potete immaginare, è la folle corsa del bus della morte, così è stato ribattezzato da molti organi di informazione. Repubblica, per esempio, che ho qui fra le mani, era fuori controllo, perdeva pezzi, primi indagati per la strage. Bisogna dire che questa notizia, con tanti approfondimenti, è quella che la fa un po' da padrone, e insieme, come potete immaginare, al giorno della Cassazione con la sentenza per Berlusconi, anche se le anticipazioni, i rumors hanno detto che probabilmente arriverà per domani. E quindi grandi foto per delle bare, dei fiori su queste bare, delle grandi foto per ancora il bus che è precipitato dal viadotto, e titoli con un senso anche di enfasi, questo dobbiamo dirlo perché lo vedremo insieme, particolarmente calcato. Allora, stiamo su Repubblica, vediamo la composizione della prima pagina. Dicevamo, la folle corsa del bus della morte è in apertura, le mani che toccano la bara con questo mazzo di fiori nella fotografia, il taglio medio per il Papa, chi sono io per giudicare i gay? Ieri, come saprete ormai, Francesco, Papa Francesco, si è lasciato andare a un incontro con la stampa particolarmente irrituale da qualche punto di vista, ma soprattutto particolarmente ricco di battute a tutto campo, per cui poi vedremo anche la cronaca di questa specie di conferenza stampa, di questo dialogo a bordo dell'aereo papale. Dicevamo ancora Repubblica, di spalla troviamo oggi in Cassazione il caso Berlusconi, subito la sentenza, e Piero Ignazzi che commenta: il centro-sinistra esca dall'impasse, è ora di uccidere il porcellum. Taglio basso, le guerre civili arabe così vicine e così lontane, scrive Adriano Sofri. E poi per lo sport, tensione Ferrari, Montezemolo sconfessa Alonso. C'è un richiamo, una civetta come si dice, che ci porta nelle pagine interne: schiaffo leghista, la Chieng a Cantù, i consiglieri escono. Il Corriere della Sera, le parole nuove del Papa sui gay, è il titolo che più attira l'attenzione dal punto di vista della dimensione e della giustezza, ma è la fotografia che ci chiama in capo al Corriere della Sera, che è quella del bus precipitato verso il vuoto senza frenare, l'ultimo tragico chilometro sul bus che perdeva i pezzi. E il Corriere pubblica l'autoscatto sul pullman di Silvana Del Giudice, 22 anni, durante la gita. Vediamo ancora alcuni titoli: fermiamo le cartelle morte, e Buccini che scrive, mentre Kovacic scrive destini perduti negli oggetti tra gli sterpi. La vignetta di Giannelli è per Papa Francesco, che in mezzo a un gregge di pecore bianche tiene in braccio una pecora nera, e immaginiamo si riferisca alla questione delle nuove parole del Papa sui gay. L'editoriale Ernesto Gale della Loggia, un ginepraio inestricabile invece sull'incredibile dibattito interno del PD, così titola il Corriere della Sera. In fondo alla prima pagina, diritti TV, oggi l'udienza in Cassazione, i legali non chiederemo un rinvio, Berlusconi ai suoi, il governo non si tocca. Per lo sport, calcio, sorteggiati, calendari, partenza in salita per la Juventus. La stampa: il Papa e i gay, chi sono io per giudicarli? Il bus perdeva pezzi per strada, Berlusconi al via la Cassazione. Come vedete, la composizione è abbastanza obbligata. Ma la stampa ci racconta anche del prete italiano rapito in Siria, l'annuncio degli attivisti, il padre dall'olio in mano a un gruppo filo alla Qaeda, del piano Chieng, scuola di lingua per i migranti, stretta contro gli attacchi sul web, il caporalato a Cantù, la Lega la boicotta. E poi ancora abbiamo lo sport, ovviamente, le grandi sfide di taglio basso per quanto riguarda le prime partite annunciate. Il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore apre con un dossier sull'IMU per le imprese, riducibilità fino a 1,5 miliardi, documento in 90 pagine del MEF, ipotesi di sconti selettivi sulle abitazioni, nodo IRAP per le aziende. I numeri del Tesoro, l'alta sulla prima casa, premi e redditi più alti. È una notizia, è un documento che viene pubblicato dal Sole 24 Ore, che occupa anche pagina 2 e pagina 3, poi la vedremo insieme nella fase di sfoglio dei giornali, dell'analisi dei commenti. Il governo stringe sulla riforma della tassazione immobiliare, la cosiddetta fase 2, che dovrebbe portare al superamento dell'attuale meccanismo incentrato sull'IMU, e in un dossier di oltre 90 pagine presenta le sue proposte. In primo luogo, per quanto riguarda l'abitazione principale, l'ipotesi è quella degli sconti selettivi, perché lo stop totale sulla prima casa, secondo i conti del Tesoro, premierebbe i soli redditi più alti. Vediamo ancora la prima pagina del Sole. Abbiamo Alberto Quadro Curzio che scrive: privatizzare per rilanciare la crescita, dismissioni e sviluppo. Vi ricorderete gli annunci fatti prima da Saccomanni e poi confermati da Letta, Enrico Letta. Poi abbiamo il taglio medio: l'Unione Europea su Monte dei Paschi, migliorate il piano, ispezioni di Banca Italia su sofferenze e accantonamenti, chieste rettifiche. E poi ancora invece, per quanto riguarda il bus dell'Irpinia, sono i commenti, gli approfondimenti, uno di Giulio Carcasi: confondiamo tutto con il fatto, il secondo di Maurizio Caprino: i fattori di rischio mortale della 16. Imprese e territori del Sole 24 Ore: in Emilia la manifattura non si arrende, questa è l'apertura, mentre per finanze e mercati si torna sul Monte dei Paschi di Siena, scontro Roma-Bruxelles sul piano, con Alessandro Graziani che dipinge lo scenario con i diktat europei: il rilancio è ora a rischio. L'Unità: l'Italia colpita al cuore, il titolo è per l'Irpinia, la fotografia è anche qui di dolore straziante. La Cassazione decide, Letta niente paura. E Staino nella sua vignetta mette due passerotti sui rami. Il primo dice: il governo delle larghe intese deve restare in piedi qualsiasi cosa decida la Cassazione. E il secondo gli risponde: casomai, se c'è bisogno, sacrifichiamo il PD. E questo è uno dei temi che è ormai arato, direi, negli articoli, nei commenti di questi ultimi giorni, se non quasi settimane. Il Papa finisce in fondo alla pagina: io non giudico i gay. Erika, nessuno l'ha creduta, attenzione, un'altra donna uccisa, spara contro la moglie e poi si suicida nelle Cese, emergenza femminicidio. Vedremo poi da un altro giornale, non dall'Unità, che in realtà hanno tolto anche l'arresto per chi viene giudicato colpevole e ho accusato di stalking. Andiamo a vedere adesso il Fatto Quotidiano. La Cassazione decide su B puntato, il PDL minaccia la guerra, mezzo reato si prescrive il 4 agosto, rinvio improbabile, la sentenza su Berlusconi per le frodi fiscali nel caso Mediaset potrebbe arrivare in giornata domani, l'eventuale condanna spaventa anche il PD. Letta e Boldrini, il governo al sicuro. L'attesa, la vignetta di Vauro, c'è Enrico Letta e Giorgio Napolitano che fumano nervosamente, tremano, si mangiano le unghie, insomma sono spaventati, ma Silvio Berlusconi con una vestaglia cashmere, dei motivi cashmere, dice: tranquilli ragazzi, tranquilli, vedrete che andrà tutto bene. La carta stracciata, l'ultima infamia, Paolo Forest d'Arcais, la campagna nel Fatto prosegue contro la revisione dell'articolo 138 della Costituzione, sono arrivati già a oltre 130.000 firme. Il Messaggero, quotidiano romano: morte sul bus che perdeva pezzi, titolo tutta pagina, la foto è ancora quella dei lenzuoli con le salme e le bare vicine. Berlusconi, slitta la sentenza, Letta non teme un terremoto, e il Papa in fondo alla pagina: chi sono io per giudicare un gay? Una frase che rimarrà ovviamente negli annali. Il Secolo XIX è il quotidiano di Genova, il bus della morte, anche qui questa è la definizione che viene data, perdeva i pezzi. Di taglio medio invece: conti privatizzazioni, Tursi assediato, qui siamo alla cronaca per quanto riguarda la città di Genova, Palazzo Tursi. E poi Avvenire, Francesco a cuore aperto, dialogo tutto campo, così vedo la chiesa, le giornate di Rio, torno più felice che stanco. Poi Avvenire oggi dedica quattro pagine a Ersilio Tonini: fedele a Cristo e ogni vita, questo è il titolo, con Adelaide Anzani Colombo che scrive: la tu per tu con Dio nel diario del cardinale, l'amore e il senso. Il Pullman di taglio medio perdeva i pezzi, e Berlusconi pensoso con le mani incrociate è in fondo alla pagina del giornale della Conferenza Episcopale Italiana. Il Giornale: ecco cosa succede se arrestano Berlusconi, la fotografia di un Berlusconi che guarda nel vuoto impassibile. È una fotografia, bisogna dirlo perché è così, evidentemente ritoccata come quelle all'interno. Sallusti firma l'articolo di apertura, Feltri, sinistra vuoto a perdere, quel PD campione di chiacchiere, insomma operazione un po' a tenaglia per quanto riguarda la prima pagina del giornale. Il verdetto, siamo a pagina 2, allora dalla Cassazione, ma la sentenza sul CAF può slittare domani, i punti oscuri e via dicendo. Vedremo nello sfoglio quante sono le pagine oggi dedicate da Il Giornale. Il Foglio con l'elefantino di Giuliano Ferrara, quello rosso, con la grande attesa, l'eventuale condanna del CAV non vale, tecnicamente invalida, e come barare al gioco, la coscienza italiana ha già mandato a monte quella partita, comunque vada, il supereroe avrà il suo happy ending. Libero, la verità di Berlusconi, la sentenza slitta, l'attesa del verdetto, Mediaset fra avvocati fedelissimi, scenari politici, battute al telefono, sondaggi, perfino il PD e i peggiori nemici sperano che la Cassazione non lo condanni. Ecco i segreti delle 300 pagine della difesa di Silvio, le cifre, le firme e i conti correnti. Questo è il titolo, tutta pagina, e il sommarione che ha scritto Libero, che poi a centro pagina porta la fotografia del ministro delle tasse, non svela il suo reddito, e della presidentessa della Camera, non taglia e sfida il CAV, la presidenta pare Fini, che viene usato evidentemente da Libero come un insulto. Il Giorno, Berlusconi, il verdetto. Poi la fotografia grande in centro è invece per un lutto nazionale, con foto di parenti che sono ovviamente distrutti dalla questione. Notav, accusati di terrorismo, perquisite le case di 12 attivisti dopo l'assalto al cantiere. Il tema del Notav, ma soprattutto dell'accusa di terrorismo, torna, vedremo da due giornali opposti da questo punto di vista. La Padania, benvenuti qui in Italia, scusate, parte prima il titolo, clandestini via dalla Gran Bretagna, benvenuti qui in Italia. La Padania apre su una pubblicità che sta girando, è un progetto pilota nella Gran Bretagna, dove voluta da proprio dal governo, in cui, sapete, questi camion con la pubblicità mobile, si dice: sei nella Gran Bretagna in maniera illegale, vattene a casa, sarai arrestato. E ricostruisce invece questo stesso camion, poi con un giochino grafico, e mette Boldrini e Chienghe, presidentessa della Camera e ministro Chienghe, che dicono invece welcome, benvenuti in Italia. Questo è il giochino di apertura della Padania. La Gazzetta dello Sport, infine, abbiamo l'apertura Juve, partenza di fuoco, il nuovo calendario. Poi c'è della Serie A, ovviamente. Poi ci sono le stelle, quindi è un fotomontaggio, una composizione grafica, perché nella A di Serie A sono appunto disegnate, riportate le fotografie dei vari campioni. Il campionato dei 5 derby, due punti record, la prima giornata il 24-25 agosto, poi ci sono gli schemi d'attacco, le mosse di mercato, insomma ci sono tutte le notizie nel dettaglio in queste civette che riportano all'interno. Montezemolo invece per la Formula 1 sgrida Alonso, la squadra viene prima degli interessi personali, intanto cambia il direttore tecnico, Allison ex Lotus al posto di Frey. E abbiamo ancora il nuoto, oggi in gara flop azzurro, Fede è convinta a fare i 200 stile libero. Sotto la testata, la Gazzetta dello Sport, lutto Napoli, niente festa, Zuniga fischi applausi, invece il San Paolo fra tristezza e gol al Galatasaray, De Laurentiis si ricorda la strage in Irpinia e lo stadio si commuove. Che affetto per Higuain, il colombiano assegno con Pande e Insigne, si riconcilia con i tifosi. Abbiamo al tempo per iniziare a vedere qualche cosa, ma proprio rapidamente, prima di passare al meteo, per quanto riguarda i temi portanti, e iniziamo a sfogliare, allora poi proseguiremo dopo con le impostazioni. Prendiamo per esempio Repubblica e Corriere. Repubblica, che entrambi aprono sulla tragedia di Irpina, ma Repubblica poi sceglie di iniziare lo sfoglio dalla politica con il processo, con la Cassazione. Il Corriere fa esattamente la cosa opposta, cioè sceglie invece di andare a scavare dentro quelli che sono i dati a disposizione per riuscire a comprendere quali possono essere i punti dolenti della vicenda, al di là ovviamente del dolore, ma soprattutto la parte tecnica. E quindi da pagina 2, 3, 4, 5 siamo sul Corriere della Sera, abbiamo la strage sulla Napoli canosa, poi farà seguire invece l'intervista, diciamo, un momento con la stampa, con il Papa prima di arrivare alla politica, quindi le due postazioni dei giornali più letti sono assolutamente non speculari. E per quanto riguarda i temi di inchiesta, ormai per la velocità è sicuramente uno degli elementi che viene presa in considerazione per la strage sulla Napoli canosa: freni, la porta aperta, primi indagati, verifiche su autostrade, e poi si va a mettere giustamente il naso in quelle che sono le revisioni annuali, tempi di guida limitati, basta poco per eludere i controlli, e una ricostruzione anche per quanto riguarda il Corriere della Sera del tratto dell'incidente, dove si segnala quello che già abbiamo letto ieri sui quotidiani, è stato ripreso anche nel nostro notiziario, e cioè che c'è un problema non soltanto infrastrutturale, evidentemente con dubbi sul guardrail, ma anche su quello stesso tratto di strada, che ha visto già la presenza di molti altri incidenti nel corso degli anni. Rieccoci allora con la segna stampa, Angelo Miotto in studio, andiamo avanti a vedere alcuni particolari e i commenti per il bus che è precipitato in Irpinia dal viadotto. Siamo sul Sole 24 Ore, confondiamo tutto con il fato e per ora chiamiamo fatalità la dinamica degli eventi che ha portato in Irpinia un pullman a tamponare altri veicoli e schiantarsi contro il guardrail e precipitare dal viadotto. Abbiamo un rapporto curioso con il fato: se prima ne eravamo semplicemente sottomessi, adesso attraverso il progresso riduciamo all'infinito e all'infinito moltiplichiamo le sue potenzialità. Così inizia il ragionamento di Giulia Carcasi, mentre di spalla troviamo questo commento: il fattore di rischio mortale della 16, come dicevamo. Adesso ovviamente quando accadono questi fatti poi si va a raccontare anche delle storie pregresse di incidenti che sono già avvenuti nel corso degli anni e che insomma qualche cosa evidentemente in quel tratto di strada, chissà ahimè in quanti altri, non funziona. I fattori di rischio su quei chilometri dell'autostrada A16 c'erano tutti e pare che quasi tutti possano aver influito nel causare la tragedia dell'altro ieri, nell'aggravarne le conseguenze, scrive Maurizio Caprino. Traffico intenso, tanti mezzi, condizioni non buone, pendenze ripide, guardrail, tutti da verificare, ma a monte ci sono le carenze del sistema italiano che chiede tanti certificati e poi controlla poco. L'abbiamo visto anche prima sul Corriere, la questione appunto della burocrazia. Ancora un po' di sfoglio su questi che sono articoli che in realtà lasciamo anche molto la vostra lettura, laddove ovviamente anche ci sono i racconti, poi racconti di altre testimonianze, e c'è anche la questione, che è una questione molto delicata e dolorosa, dei bambini che sono rimasti, come dicono molti titoli degli articoli, soli. Pullman della morte con la corsa pazza, con l'ombra del guasto, siamo sull'Unità, la tragedia in Arpigna, napolitano, inaccettabile, sciagura, ora più sicurezza. Il commento di Paolo Di Paolo: indifesi uniti contro un dolore senza perché, piccoli viaggi di famiglie collegano l'Italia più nascosta, feroce il rischio dove non lo aspettiamo. La lotta di Francesca e Cristoforo, quei bambini sospesi nell'orrore, questi sono alcuni dei titoli della doppia pagina che viene dedicata dall'Unità, ma andiamo proprio random, il Messaggero. Morte sul bus che perdeva i pezzi, il titolone a tutta pagina, diciamo, dell'apertura, con la foto delle salme e delle bare. Era senza controllo, siamo a pagina 2, perdeva pezzi, prima indagati per la strage del bus, la dinamica della tragedia, c'è un disegno in 6 tavole, il pullman in servizio da 30 anni, nel mirino i buchi della revisione, e poi l'intervista: da noi pochi test, bisogna fare come i tedeschi. Il terrore dell'ultimo chilometro, schianto dopo il volo senza fine, storie di vite spezzate. Siamo a pagina 5 adesso del Messaggero, lo strazio dei pellegrini, con una fotografia che riassume delle fototessere a colori. Il piccolo miracolo dei bambini salvi in ospedale ma senza genitore, come vi dicevo, questo è un titolo che ricorre molto su tutti i quotidiani. Siamo a pagina 6 e 7 ormai del Messaggero, due sorelle al santuario dopo l'intervento riuscito. E poi ancora, pagina 9 del Messaggero, viadotto della morte, la strana storia, e Napolitano, ovviamente, che dice sciagura inaccettabile, come abbiamo già sentito prima. Ecco, questi, vi ho fatto tre esempi per capire quali sono le dinamiche anche dal punto di vista del giornalismo, che affronta l'aspetto emotivo da una parte, l'aspetto poi invece dove si inizia a cercare di scandagliare il perché, o se ci fossero delle situazioni che potessero in qualche maniera favorire, agevolare questo tipo di fatalità, appunto, tra virgolette. Restiamo sulla pagina del Sole 24 Ore, perché abbiamo detto già nella presentazione delle prime pagine che ha un titolo di apertura che si distacca, come spesso, dagli altri: dossier sull'IMU per le imprese, deducibilità fino a 1,5 miliardi, numeri del tesoro, l'alto sulla prima casa, premi e redditi più alti. E l'IMU, come sapete, è stato ed è sempre un test di grande prova per la stabilità del governo delle larghe intese. Ora siamo nel pieno della vicenda della Cassazione rispetto alla sentenza, ma l'IMU è sempre stato ovviamente uno dei grandi temi su cui prendere una decisione finalmente. Imprese, deducibilità fino a 1,5 miliardi, siamo a pagina 2, l'ipotesi Saccomanni per le aziende, IMU scontabile da IRES e IRPEF, si studia l'estensione all'IRAP. Abbiamo gli effetti sulle casse in una grafica, restituzione ai comuni e poi il taglio basso, la Camera chiama il governo entro l'anno a stabilizzare i bonus edilizi. Passiamo a pagina 3, in questo lavoro fatto da Sole 24 Ore per la propria apertura, che ha chiamato tassazione sugli immobili. Per quanto riguarda invece le famiglie, quindi a pagina 2 abbiamo le imprese, a pagina 3 le famiglie, i numeri del tesoro: con lo stop all'IMU premiati i redditi alti, sopra i 120.000 euro risparmio medio di 629, fino a 10.000 euro beneficio di soli 187. Cosa fa il Sole? Fa una grafica, mette delle grafiche sulle principali proposte per l'abitazione principale e poi ci racconta con 1, 2, 3, 4, 8 box i vari casi: esenzione totale, aumento detrazione, detrazione in base a rendita, detrazione in base a reddito, in base a ISE, in base ai valori, sui valori IMU, la service tax e il credito di imposta. E su quello va a vedere qual è il costo per l'erario e ci racconta anche quali sono i risparmi. Pagina 2 e pagina 3 del Sole 24 Ore, questa è la sua apertura. Andiamo a vedere, proprio perché l'IMU è un tema che dicevamo stimola la questione politica, che cosa si dice oggi su Cassazione. Abbiamo detto che probabilmente il rinvio a domani, più che rinvio, probabilmente si aspetterà domani per conoscere la sentenza. Non usiamo la parola rinvio perché potrebbe distrarci poi su quello che sarà il risultato proprio della sentenza della Cassazione. E però i giornali, che già da alcuni giorni ovviamente stanno cavalcando questa notizia, oggi riportano ancora una volta quali sono i sentimenti della vigilia, che cosa si aspetta per oggi. Berlusconi, che ha riunito tutti i suoi avvocati a cena per una sorta di ultima cena, tra virgolette, con, ricordiamo poi anche la sua intervista, poi smentita, poi pubblicata su Facebook, dove diceva che è pronto ad andare in carcere, la composizione del collegio, insomma le notizie si rincorrono in queste ore, nell'attesa di capire che cosa succederà non soltanto all'imputato Silvio Berlusconi, ma ovviamente al governo. Allora, procediamo con ordine e andiamo a vedere sul Corriere della Sera, diciamo in prima pagina, lo troviamo a piedi pagina per evidenti ragioni di cronaca che ha prevalso oggi sulla politica nell'apertura, e nello sfoglio, dicevamo, il Corriere, dopo la questione del bus, mette il Papa e dal Papa poi si arriva a Berlusconi. Vertice con i fedelissimi, l'appello di Coppi, che avvocato, serve serenità. Sette avvocati in campo, perde quota l'ipotesi del rinvio. Il giorno del giudizio è per il PDL, il Cavaliere mette alla prova i suoi. E nelle pagine successive, siamo a pagina 10-11, invece c'è il risvolto, la medaglia da una parte, quindi il processo per quanto riguarda Berlusconi e la Cassazione, dall'altro il PD, cresce la paura di contraccolpi e del Rio, qualche preoccupazione c'è, e la legge elettorale, saggio al lavoro su un porcellum con il doppio turno. Andiamo subito dentro però commenti e partiamo dal Foglio di Giuliano Ferrara, perché scrive: la grande attesa, sarcastico, l'elefantino rosso di Ferrara sul foglio, vediamo soltanto il finale. Tutti sanno che il lieto fine per Berlusconi e per il governo, finché serva, dipende da una circostanza assoluta, non relativizzabile nemmeno con 100 sceneggiature di Moretti e 1000 corsivi di Serra. La condanna del CAV non vale, è tecnicamente invalida, è come barare al gioco, la coscienza italiana ha già mandato a monte quella partita. L'ex presidente del Consiglio, statista mondiale assai longevo, l'editore della televisione commerciale, il capo fazione, l'italiano più celebre e famigerato dai tempi di Cola di Rienzo, non teme verdetti di tribunale. Può perfino rispettare alla lettera, aspettando dal paese che abita l'antidoto all'infelicità dell'esclusione, del tiro mancino, dell'omicidio giudiziario. Berlusconi ha già vinto e alla grande. Ora, tra falchi e colombe, bisogna sistemare una pendenza. Così Giuliano Ferrara, il suo stile inconfondibile per quanto riguarda la giornata di oggi e di questa attesa la sentenza della Cassazione. Andiamo a cercare, ecco qua nella mazzetta dei giornali, Repubblica, perché Piero Ignazzi scrive un'analisi: il centrosinistra esca dall'impasse, è ora di uccidere il porcellum. Chi fiocinerà il Moby Pig, questo mostruoso e inaffondabile sistema elettorale che infesta i mari della politica? Finora nessuno dimostra il coraggio di un capitano Acab. Eppure tutti disprezzano il porcellum, a cominciare dai loro ideatori, i saggi del centrodestra, allora guidati dal disonorevole Roberto Calderoli. Ma se si può comprendere l'imbarazzato silenzio di questa parte politica, non si capisce proprio la timidezza e l'afasia del centro-sinistra, del PD in particolare. È vero che il Partito Democratico fatica a decidere qualunque cosa, ma almeno potrebbe ritrovarsi unito nello sconfessare il gioco di rinvii e rimandi con cui si seppelliscono le ipotesi riformatrici della legge elettorale. L'invenzione dilatoria degli ultimi giorni è quella di costituzionalizzare il sistema elettorale, una insensatezza tipica del genio politico italico. Segue poi a pagina 27 il commento di Piero Ignazzi, che se la piglia, come avete visto, soprattutto col PD, e insomma gli dice: non solo datti una mossa, ma dia anche qualche cosa che sia di più ficcante, di più determinante per quanto riguarda questa riforma elettorale, che poi doveva essere uno dei primi scopi del governo delle larghe intese. E rieccoci ancora con la politica, andiamo avanti con la politica in questa rassegna stampa, ma con un aspetto particolare che ha a che vedere con uno dei personaggi della politica, il ministro Kyenge, che è stata contestata ancora ieri a Cantù. I consiglieri leghisti sono usciti dall'aula e in questo senso vale la pena andare a prendere il manifesto e vedere che cosa pubblica il manifesto, un'intervista a pagina 5 dove si parla della questione, non soltanto del caso di ieri ovviamente, ma soprattutto dei casi più duri, come quella delle dichiarazioni di Calderoli, come quella delle banane lanciate sul palco a Cervia. L'intervista sugli attacchi a Mr. Kyenge: fanno paura i neri che hanno potere, ed è un'intervista a Nadia Urbinati, che non solo siede nel comitato dei saggi, ma soprattutto è un personaggio di riferimento della Columbia University di New York. Allora, l'intervista di Carlo Lagna, a un certo punto Lagna fa questa domanda: ma il fatto che Kyenge, oltre ad essere nera, sia una donna di governo influisce? Dopo le elezioni di Obama in America nel 2008 aumentarono le aggressioni nei confronti dei neri. Fa paura un nero che ha potere? Risponde Urbinati: sì che fa paura. Io ricordo che appena si comprese che Obama stava sopravanzando Bush, alcuni gruppi legati al Partito Repubblicano, poi confluiti nei Tea Party, cominciarono a diffondere dubbi sulla sua identità americana. Dichiarandolo non americano, lo si decretò escluso, ma anche un nemico totale se provava a scalare le istituzioni dello Stato. Per i razzisti del Tea Party non era concepibile avere un presidente che fosse nero e americano. C'è quasi un'idea incorporata nel pregiudizio che chi è oggetto di pregiudizio appartiene a un sotto, non a un sopra, quindi non può diventare parte della leadership politica. Quando questo accade è un motivo di scandalo, anzi provoca la perdita di autorevolezza delle istituzioni. Un ministro nero vuol dire che il ministero ha meno valore. Per anni e ancora oggi questo è valso anche nel caso delle donne. Domanda: e questo si riflette anche sul ministro Kyenge? Certo, risponde Urbinati, perché è nera e donna, un difetto dal quale oltretutto lei non si può emancipare. Essere nera e donna intacca le istituzioni dello Stato. Questa è la risposta di Urbinati, che poi all'ultima domanda su come vede il futuro risponde: non lo so. Penso però che questa situazione di blocco che stiamo vivendo, questa alleanza politica anomala, deve finire prima possibile, perché non stimola la chiarezza delle idee, non lascia la libertà agli attori di essere se stessi, perché c'è un veto incrociato per cui non si può fare tutto, ma non si può nemmeno dire tutto. Se in politica non esistono più differenze, che sono il sale della politica, esse si travasano altrove. E quindi ecco anche qui il frutto per Urbinati delle larghe intese, ha anche a che vedere con la vicenda che riguarda il ministro Kyenge. Siamo sull'Unità a questo punto, a pagina 13, e soltanto per segnalarvi che qui trovate l'articolo Go Home, così Cameron caccia gli immigrati, che è quello che vi ho raccontato prima per spiegarvi la prima pagina della Padania. Pubblicità mobili avvertono i clandestini che li attende l'arresto. Scoppia la polemica, ma il governo si difende, due punti, a virgolette, funzionano. E poi l'articolo di Gabriele Bertinetto ci racconta che ogni singola espulsione coatta costa 15.000 sterline, mentre solo 10.000 sterline ha speso il governo per noleggiare due furgoni e mandarli 7 giorni in giro per Londra con il loro bravo avviso scritto sul fianco a caratteri cubitali. Go home. Esperimento pilota, lo chiamano Downing Street, che potrebbe essere esteso all'intero territorio nazionale, perché è già chiaro che funziona, tra virgolette, assicura un portavoce di Cameron, senza però motivare quel giudizio se non in base al grande interesse suscitato dall'iniziativa. Pagina 13 dell'Unità. Andiamo a vedere qualche cosa sul Papa, diciamo di questa chiacchierata informale ma precisa nel comunicato, nel messaggio che ha voluto dare Papa Francesco ai giornalisti, che ovviamente e giustamente lo hanno riportato immediatamente, e da qui è stata scelta, direi, la frase sui gay come principale, da tutti i mezzi di informazione che abbiamo qua, per quanto riguarda la carta stampata, le parole nuove del Papa sui gay: chi sono io per giudicare un omosessuale che cerca Dio? Però sono molte le cose che ha detto ieri e non riguardano soltanto i gay. Marco Garzogno sul Corriere della Sera scrive in prima pagina: la chiave di lettura per comprendere Papa Francesco è forse più semplice di quante tante analisi vorrebbero farci credere. Dobbiamo essere normali, ha detto ieri ai giornalisti durante il volo che lo riportava a Roma dal Brasile. Allora andiamo a pagina 33 del Corriere della Sera per vedere come è impostato. Scusate, a pagina 33 c'è Garzogno che prosegue nel suo commento. Diceva, pagina 6 e 7 invece del Corriere della Sera apre con omosessuali e coppie divorziate, le aperture di Papa Francesco. Vediamo un po' di sentenze, di dichiarazioni. Il Signore dimentica e noi non abbiamo diritto di non dimenticare. Si deve distinguere il fatto che una persona è gay dal fatto di fare una lobby. Le caratteristiche dello IOR devono essere trasparenza e onestà. Una chiesa senza le donne è come il collegio apostolico senza Maria. Nella mia borsa c'è il rasoio e il breviario, dobbiamo abituarci a essere normali. Svelato il mistero della borsa che ha tenuto sospeso il fiato del mondo, direi, visto anche la curiosità che c'è stata da parte di tanti mezzi di informazioni su quella fotografia che addirittura conquistò le aperture di tanti giornali online. Allora c'è un'intervista di un filosofo cattolico, Giovanni Reale, 82 anni, filosofo cattolico che ha curato gli scritti di Papa Giovanni Paolo II, ovviamente non è uno qualunque, ma che ci racconta sul Corriere che sui gay è una svolta epocale, la Chiesa guarda al presente. Epocale, per il filosofo Giovanni Reale, il nostro maggior studioso di Platone nel mondo, la svolta sull'omosessualità assunta da Papa Francesco è un segno importante, una testimonianza della progressiva uscita della Chiesa dal potere temporale. Pierluigi Pranza gli chiede: c'è distanza fra le dichiarazioni di Papa Francesco e il pensiero di Ratzinger? Risponde Reale: non proprio, anche Ratzinger quando è diventato Papa è diventato pastore, ed essendosi accorto di non riuscire a tagliare con un sistema di potere sviluppatosi in Vaticano quando Wojtyła era ammalato, ha preferito con un gesto immenso di dimettersi. Anche lui voleva una chiesa più forte, se si leggono attentamente i suoi studi, le sue encicliche, è vicino a una chiesa che si liberi da un potere esteriore. Domanda: i conservatori Teocon potrebbero alla lunga prendere distanze dalla chiesa di Papa Francesco? E lui risponde: se fosse così sarebbe un bene l'allontanamento, vorrebbe dire che non sono veri cristiani nello spirito, non lo sono nella sostanza. Allora, lasciamo a voi la lettura delle frasi e del colloquio di Papa Francesco con i giornalisti, lo trovate praticamente su tutti i quotidiani che avessero inviato sull'aereo papale, per segnalarvi, perché siamo in conclusione, per segnalarvi un paio di articoli di un altro tema, e riguarda le perquisizioni di 12 militanti in OTAV, con due punti di vista che vi proponiamo completamente diversi. Il primo è dal Manifesto, la guerra preventiva, con Ugo Mattei, Alberto Lucarelli, Livio Pepino, che scrivono: ancora una volta Movimento Notave destinato a attenzioni discutibili della Procura di Torino, e ci spiegano perché con esempi, facendo un ragionamento del perché l'articolo 280 del codice penale, che prevede appunto versione terrorismo, sia per loro un salto di qualità abbastanza inspiegabile da parte della Procura. E l'altro invece è il Corriere della Sera, quindi lì invece troverete Giovanni Bianconi, che parla anche lui di due salti questa volta di qualità, e cioè da una parte mette quello delle modalità di protesta dei militanti più vivaci, diciamo così, così scrive, credo, e poi dall'altra invece appunto la contestazione di questo tipo di reato. In tutto ciò il Giornale si schiera dicendo, con Paolo Granzotto: allarme versione Notav come IBR, finalmente lo Stato batte un colpo. Pagina 13 di Repubblica invece troverete un interessante articolo che riguarda una trattativa che c'è stata al Fondo Monetario Internazionale su un comunicato che riguardava l'Italia. E cosa è successo? Che ci hanno messo non soltanto fra i paesi dell'Europa, i cosiddetti PIGS, ma non soltanto non contenti, hanno anche scritto che noi siamo sostanzialmente in Italia un paese di periferia. Da qui la reazione interna e poi tutto un racconto di come i vari esponenti che rappresentano l'Unione Europea all'interno del board anche del Fondo Monetario abbiano cercato di convincere, di rettificare questo tipo di espressioni, dove si parlava appunto di periferia. Ma cosa è successo? Scrive Federico Fubini che, detto fatto, il costo del prestito delle imprese resta alto nella periferia, quindi la parola è rimasta, si legge nel comunicato curato dai due responsabili del Dipartimento Europeo a Washington, e ci dice chi sono: uno è un iraniano, Reza Moghadam, e l'altro è l'indiano Mahmoud Prahan. Il titolo è: Fondo Monetario Internazionale, Italia periferia d'Europa, scatta la protesta dell'Unione Europea, ma il fondo rifiuta di correggersi. E su questa piccolo sgambetto, piccolo grande che sia, chiudiamo dalla segna stampa. Grazie Carmelo Lauricella per la regia, un saluto a tutti quanti.